9 in punto, la versione di Oscar. Oh, cari ascoltatori, un tonante sveglissimo buongiorno in questo lunedì di Pasqua in cui più di voi, la stragrande maggioranza di voi, ascolteranno, non so se in diretta o in podcast, e ancora in un'atmosfera totalmente festiva e pasquale. In ogni caso noi siamo qua e io sono in diretta come sempre in questo lunedì di Pasqua per battere e ribattere su uno dei punti sui quali più negli ultimi tempi di secco tento di proporre alla vostra attenzione un punto che secondo me non si trova invece nel mainstream, come si dice con gergo un po' tecnico. Cos'è il mainstream? È il corso ordinario prevalente della informazione, di un dibattito pubblico, ecco. E qual è la cosa che non si trova molto nel nostro dibattito pubblico a proposito del governo di emergenza, il governo tecnico che da novembre in avanti ha dovuto prendere in mano l'Italia per l'inadeguatezza del governo precedente di fronte al fatto che eravamo prossimi al baratro come detonatore dell'euro, come paese la cui condizione di debito pubblico tanto elevata, di bassa crescita tanto precedente all'euro e di già elevatissima spesa pubblica e pressione fiscale ci consegnava come bomba pronta ad esplodere agli occhi del mondo intero. Ecco, quello che non si trova nel dibattito di tutto ciò che il governo ha fatto, delle molte cose buone e poi dei colpi che ha iniziato a perdere, delle tossicchiate che sono iniziate a venire dopo il decreto Salva Italia, una stretta fiscale per cambiare, intanto per cambiare era necessaria, ma dopo sulla liberalizzazione si è visto che il corso, per così dire, delle novità perdeva qualche colpo. E dopodiché, man mano, fino a questa riforma del mercato del lavoro, su cui le imprese sono contrarie e secondo me hanno ragione, però ne abbiamo già parlato di questo, di volta in volta c'è un tema che sempre più difficoltosamente si riesce a far emergere come il vero limite di questa impostazione, di questo governo, sia pur meritorio, ha tanti meriti, ma c'è un limite. Questo limite è il fatto che non si parla, si continua per meglio dire a non parlare di tagli incisivi di spesa pubblica e di trasposizione contestuale di questi tagli incisivi. Servono nell'orbita di molti punti di PIL. Perché servono? Perché servono per traslarli immediatamente in minor pressione fiscale alle imprese e alle famiglie. Allora, poiché questo è il punto di cui siamo molto convinti ed è questo il punto debole fondamentale che iniziamo con sempre maggior decisione ad additare a voi tutti, perché di pressione fiscale in pressione fiscale, di aumento di botta tributaria in aumento di botta tributaria, alla fine il peso sull'Italia legale sta diventando tale da sportarla all'anossia, alla mancanza di ossigeno. Si aggiunge al credit crunch, si aggiunge ai clienti che non pagano le imprese, ed ecco perché di qua di giorno in giorno continuiamo a ripetere, ci stiamo abituando all'idea che ci sia gente che si impicca o si spara perché ha delle difficoltà, perché l'agenzia delle entrate, perché i dipendenti che non si riesce più a pagare. Ecco, se ci dobbiamo abituare a questo, noi pensavamo che fosse più che mai necessario rendersi conto che il cambio di passo su una politica oramai ventennale fatta tutta di aggravi fiscali fosse maturo, e invece questo appunto non riesce ad entrare né nelle cronache politiche né in quelle degli editorialisti né nella realtà politico-parlamentare. Allora, la scorsa settimana, quando ho visto che una persona di cui ho grandissima stima e che abbiamo portato anche a questi microfoni, ricordate il suo centro studi, si chiama Economia Reale, fu protagonista di una puntata che piacque molto al pubblico di 9 in punto perché mi spiegò per filo e per segno l'inganno che da 20 anni ci fa andare avanti con tagli su tagli che vengono annunciati per molti punti di PIL da ogni governo in carica, ma nella realtà la spesa è sempre aumentata, sempre, tranne che in 3 anni. Ci sono solo 3 anni in tutta la storia della Repubblica post Seconda Guerra Mondiale in cui in termini reali è diminuita, ma altrimenti è sempre aumentata. E vi svelò questa specie di trucco contabile, di questa facezia del dibattito pubblico, di questa mistificazione, perché i tagli sono sempre annunciati e praticati, ma rispetto a un incremento della spesa pubblica anno per anno, tali da essere tagli su cui tutti poi si tirano in testa i vasi e le parole acuminate, ma sono sempre tagli rispetto alla spesa aggiuntiva inferiori a quanto è l'aggiunta rispetto all'anno precedente. Quindi l'effetto è che comunque la spesa pubblica sale ed ergo la pressione fiscale al suo seguito. Quando ho visto che una persona di cui ho grande stima, che è stato appunto vice ministro dell'economia, che è presidente di una commissione importante come la commissione finanze del Senato, che quindi ha senso dello Stato oltre che conoscere bene i numeri e aver studiato a MIT con geni come Franco Modigliani, il premio Nobel dell'economia italiano, una persona di questo livello perdeva la pazienza in Senato e iniziava a dire: adesso basta, però, perché di fronte al fatto che nel libero esercizio di una documentata attività parlamentare io chiedo degli emendamenti per raddrizzare la politica economica, basta tasse aggiuntive, perché qui bisogna tagliare spesa e bisogna modularla in maniera tale da trasporla immediatamente in maggiori sgravi alle famiglie e maggiori sgravi volti a creare più occupazione, cioè meno IRAP sulle imprese per rendere il costo del lavoro meno pesante. Mi devo sentir dire che non si può, adesso basta, perché visto che qui a dirmi che non si può è la Ragioneria Generale dello Stato, vorrà dire che io dovrò denunciare la Ragioneria Generale dello Stato. Allora, di fronte a questo mi sono grattato la testa e ho detto: scoppierà un pandemonio. Nei giorni successivi la cosa, per carità, aveva un giornali l'avranno considerata, non so come, probabilmente l'avranno considerata una specie di eccentrica cosa delle cronache parlamentari. A me sembra invece una questione di fondo, perché ripeto, un viceministro dell'economia ex che presiede istituzionalmente una commissione parlamentare importante, se arriva a dire questo vuol dire che è un campanello d'allarme fondamentale. Allora mi sono detto, nel lunedì di Pasqua, quando la gente è ancora con la testa un po' nelle feste, ma dall'altra parte però ha anche più tempo e più modo per ascoltare, se vuole ascoltarci in podcast o in diretta, allora facciamo una puntata con l'ospite che vi propongo oggi. L'avrete capito, molti di voi l'avranno capito, è il senatore Mario Baldassarri, che è senatore per il terzo polo e presiede appunto la commissione finanze al Senato, per farci spiegare da lui com'è questo fatto che una persona moderata ed esperta di politica di bilancio come lui arrivi al punto di dover dire: beh, qui non se ne può più. Ma allora, se è la Ragioneria Generale dello Stato veramente a esercitare la politica di indirizzo dell'economia, vorrà dire che in qualche modo bisognerà poi fare perché ne risponda dei sì e dei no che ci dica. Buongiorno al senatore Baldassarri e buon dopo Pasqua a lei. Buongiorno a tutti voi, Giannino. Allora, com'è che siamo arrivati a questo punto? Ma guardi, gli ascoltatori sapranno che nelle scorse settimane è arrivato al Senato, da parte del governo, il cosiddetto decreto di semplificazioni fiscali. A quel punto quel decreto è stato assegnato come analisi congiunta alla Commissione Finanze e alla Commissione Bilancio. E per ragioni istituzionali, ma anche per accordo politico fra i vari partiti, si è deciso che i due relatori del provvedimento fossero i due presidenti delle commissioni, quindi il collega Azzolini, presidente della Commissione Bilancio, e il sottoscritto. Sin dal momento dell'incardinamento nelle due commissioni, nel fare la relazione sul decreto di semplificazione fiscale, avevo posto un argomento, e cioè avevo detto: questo decreto, a detta dello stesso governo, e correttamente devo dire, è stato definito un decreto di ordinaria manutenzione dell'assetto fiscale del Paese, anche se su questo quadro, su questa cornice, si potevano fare degli miglioramenti, degli aggiustamenti. In particolare, per esempio, è stata aggiustata tutta la questione dell'IMU, sia l'IMU per l'agricoltura, sia l'IMU per gli edifici dei comuni, degli ex case popolari e quant'altro. Però in quel momento avevo detto: colleghi, partiti e governo, guardiamo un attimo il ciclo economico. Bene, abbiamo di fronte un ciclo economico che, al di là dei numeretti, ci dice che quest'anno avremo meno 2% di prodotto interno lordo, cioè una fortissima recessione. L'anno prossimo, se tutto va bene, staremo a più 0, qualcosa. Se non va tutto bene, staremo ancora a meno 0,6%. Il che vuol dire che c'è il rischio che nell'arco dei prossimi 12-18 mesi il PIL italiano, cioè il reddito di tutti noi, sarà inferiore a quello di questo momento sostanzialmente, addirittura attorno al 2,5-3% in meno. Questo lo dice il Fondo Monetario Internazionale, lo dice l'OCSE, lo dice la Banca d'Italia, cioè tutti i maggiori previsori, che però sono anche istituzioni internazionali e nazionali. La conseguenza di questo è che avremo altri 400-450 mila disoccupati in più, e questi disoccupati in più non sono semplicemente, pur nella gravità della situazione, i giovani precari che perdono i contratti precari. Questi in gran parte saranno capi di famiglia. La differenza è fondamentale: i giovani precari spesso, per nostra fortuna, hanno una famiglia alle spalle che qualche volta può aiutarli, può sostenerli, cioè quello che chiamiamo il welfare all'italiana, quello della famiglia. Questi nuovi disoccupati sono invece capi famiglia, che la famiglia se la ritrovano la sera di fronte al tavolo e ce l'hanno sulle spalle. E allora, se questa è la prospettiva del ciclo economico, ho posto questo argomento, e cioè, a parte il decreto semplificazioni fiscali, che è ordinaria manutenzione e che andava ed è stato migliorato sul fronte prevalentemente dell'IMU, vogliamo come forze politiche, governo, partiti, approfittare di questo treno che passa per aggiungere una seconda manovra, che era quella dei tagli mirati, puntuali, verticali agli sprechi e alle corruzioni della spesa pubblica, che la Corte dei Conti ha detto recentemente pari a 60 miliardi di euro all'anno, e ha indicato col ditino le voci precise dentro le quali si annidano queste sacche di corruzione, che sono gli acquisti delle pubbliche amministrazioni per 140 miliardi di euro all'anno, aumentati nel settore della sanità del 50% negli ultimi 5 anni, e i fondi perduti, cioè 40 miliardi di euro all'anno, che vengono distribuiti a pioggia, non si sa bene esattamente per quali obiettivi, per quali finalizzazioni. Teoricamente dovrebbero essere per lo sviluppo e l'occupazione, ma in 30 anni di fondi perduti quello che si è visto è che i fondi dopo 3 anni sono perduti, ma pure le imprese che non ci sono più. Allora, questa era la questione posta dal sottoscritto al momento dell'incardinamento del provvedimento. Sulla base di questi ragionamenti, attraverso la discussione generale, il terzo polo, quindi 25 senatori al Senato del terzo polo, ai quali sono aggiunti diversi altri colleghi di altre formazioni politiche, hanno accolto questo invito e hanno presentato emendamenti, pochi, 4 emendamenti precisi, puntuali, nel senso di dire: al di là dell'ordinaria manutenzione, dato il ciclo economico pesante, negativo, la recessione pesante in atto, non c'è più tempo, occorre provvedere subito a sostenere famiglie e imprese, e quindi a sostenere il ciclo economico. Certo, non si tratta di andare dal meno 2% previsto da tutti quest'anno al più 2%, però quantomeno di attenuare e magari fare zero invece che meno 2. Questo è il tema politico che è stato posto in commissione. Su questo argomento ci sono stati vari incontri anche con vari rappresentanti del governo, ai quali abbiamo sollecitato questa riflessione, a partire dallo stesso Presidente del Consiglio. La riflessione a questo punto ha comportato un accantonamento iniziale di questi emendamenti, per dire: ci pensiamo e valutiamo e provvederemo in qualche modo. Ovviamente io ho dovuto escludere sin dall'inizio che questi emendamenti puntuali e precisi potessero essere trasformati in un ordine del giorno accolto dal governo, per la semplice ragione che nei 3 anni passati è successo già 4 volte che il precedente governo chiese di trasformare questo tipo di emendamenti in ordine del giorno e poi con l'ordine del giorno non se ne è fatto più nulla. Quindi si è detto, beh, questa volta, data la crisi in atto, o si dice sì o si dice no. Il problema, Giannino, è che questo sì o questo no non è neanche venuto formalmente dal governo. Certo, formalmente è venuto dal governo e dal relatore Azzolini, che hanno espresso entrambi parere contrario a questi specifici emendamenti. Ovviamente il sottoscritto come relatore, invece, se altro relatore, io ho espresso parere favorevole, anche se in questo caso non ho potuto firmare gli emendamenti firmati dai 25 senatori del Terzo Polo, per la ragione che, come si fa istituzionalmente, essendo io relatore, mi sono astenuto dal firmarli, ma non potevo astenermi dal sostenerli, perché in realtà, a ben vedere, è la battaglia che ho cominciato nel 2001 come vice ministro dell'economia, cercando di far capire al precedente ministro dell'economia Tremonti che, a parità di deficit pubblico, ciò che conta ai fini della crescita economica è il livello e la qualità della spesa pubblica e il livello e la qualità del prelievo. E all'epoca lanciai pure uno slogan che valeva per l'Italia e tutta Europa: sotto il 40 l'Europa campa, sopra il 40 l'Europa crepa, laddove il 40 è grosso modo la pressione fiscale complessiva di orientamento. Quando la pressione fiscale eccede questo 40, frena l'economia, fa ridurre le entrate e crea pure problemi di equilibrio finanziario in termini di deficit e accumulazione di debito pubblico. Noi siamo ormai vicini al 47% di pressione fiscale in Italia. Questo è il tema politico. Il problema, come dicevo, è che il no formale è stato espresso dal governo, dal rappresentante del governo e dall'altro relatore Azzolini, ma sulla base di un documento della Ragioneria Generale dello Stato e dell'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Economia, entrambi i documenti che nell'analizzare questi specifici emendamenti dicono cose palesemente sbagliate e implicano giudizi politici da parte di organi tecnici. Le faccio un solo esempio per non annoiare i nostri ascoltatori. Cioè, in questo documento si dice: la spesa per acquisti che è indicata da questi emendamenti come tagli da fare è stata fortemente ridotta e compressa negli ultimi anni. Beh, questa è un'affermazione palesemente falsa, perché i dati storici indicano che questa spesa è fortemente aumentata, ripeto, 50% nel settore della sanità, 37% da parte delle regioni, 23% da parte dei comuni, 17% da parte dei ministeri, il che dà anche l'indicazione di come è stato fatto questo ulteriore aumento di spesa. Cioè, in fondo abbiamo abbastanza frenato negli aumenti i ministeri e i comuni e abbiamo lasciato scialacquare le regioni, in particolare nel settore della sanità. Seconda cosa è che si dice in quei documenti, che sono stati formalmente consegnati in commissione bilancio, e si dice in quei documenti non si possono fare ulteriori tagli su queste voci di spesa. Beh, questo francamente è un giudizio politico, perché la politica, il governo e il Parlamento possono decidere in qualunque momento, se lo vogliono, di tagliare da una parte e incrementare dall'altra. Non può essere né un organo tecnico, che teoricamente dovrebbe essere la vestale dei conti pubblici, cioè la Ragioneria Generale dello Stato, né tantomeno un ufficio legislativo del Ministero dell'Economia, a esprimere un giudizio politico. Questo è quello che in qualche modo ho denunciato, e cioè il governo e il Parlamento sono sempre liberi di dire no a questi emendamenti esprimendo un giudizio politico, dopodiché se ne assumono le responsabilità, ma non nascondendosi dietro il dito di un organo tecnico come la Ragioneria o addirittura l'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Economia, che peraltro poggia le proprie analisi su valutazioni sbagliate e valutazioni politiche. Questa è anche un'invasione di campo. In conclusione, poiché la Commissione Bilancio deve esprimere un giudizio sulle singole proposte emendative in base alla verifica dell'articolo 81 della Costituzione, cioè esiste o meno la copertura di quel preciso emendamento. Beh, qui francamente è paradossale. Questi emendamenti sono stati passati al vaglio dell'articolo 81 negli ultimi 3 anni, come ho già detto, 4 volte. Non era mai stato espresso un giudizio negativo ai sensi dell'articolo 81. Era stato espresso un giudizio negativo politico da parte del precedente governo, che diceva queste cose non si possono fare, o meglio, non le vogliamo fare. Mentre qui adesso siamo al punto di dire no, questi non sono coperti, quindi per questo un giudizio tecnico scarta le proposte politiche. Sì, ma non è sono la cosa, esattamente, Danilo, la cosa paradossale però è che, proprio ragionando nei giorni precedenti col governo, avevamo fatto una riformulazione di questi provvedimenti assolutamente rigorosa, in questo senso, cioè c'erano 2 scambi politici. Il primo era: tagliamo le ruberie negli acquisti per ridurre l'IRPEF alle famiglie aumentando le deduzioni per i figli e per i nonni a carico. Bene, in questo caso l'emendamento diceva: tagliamo questa voce di spesa, i risparmi che si generano vengono messi in un fondo, quando il governo, il Ministero dell'Economia certifica che ci sono quei risparmi di spesa nel fondo, con un proprio decreto autonomo può concedere le deduzioni alle famiglie. Quindi c'era tutto lo strumento per impedire la formazione di deficit aggiuntivo, no, perché appunto si prevedeva che solo all'atto verificato dei risparmi prodotti e confluiti in quel fondo il governo a quel punto autorizzava e procedeva a diminuire la pressione fiscale sulle famiglie. Si sarebbe potuto dire: non si verificano quei tagli di spesa. Bene, e allora non si verificano neanche i tagli delle tasse. Appunto. Che c'entra questo con l'articolo 81? Stessa cosa per quanto riguarda le imprese. Si è detto, si diceva e si dice, si continuerà a dire, perché tanto continueremo a presentarli questi emendamenti, perché questo è lo Scilla e Cariddi della politica economica italiana. Se vogliamo sostenere la crescita dobbiamo tagliare la spesa. Allora, io devo interromperti perché dobbiamo andare in pubblicità e ti pongo già il punto di fondo, perché ho fatto parlare a lungo per capire bene che cosa è avvenuto in Parlamento, cioè di fronte a proposte che consentono in sé, già contengono lo strumento per evitare la formazione di deficit, che non ci possiamo permettere, aggiuntivo, ma che volgono a un equilibrio di bilancio, a un più basso livello di spesa pubblica e a un più basso livello di pressione fiscale, perché noi siamo convinti che la differenza tra un equilibrio di bilancio fatto in queste condizioni, bassa spesa, basse tasse, rispetto a uno fatto alte tasse, alta spesa, la differenza è l'abbattimento della crescita del paese e via via anzi l'inginocchiamento del paese sotto l'onere di tutta questa spesa pubblica e questa pressione fiscale. Quindi non è affatto indifferente come si raggiunge la compliance di quello che ci chiede l'Europa. Di fronte a questo, oramai chi lo propone viene tacitato, neanche più dalla politica, ma da componenti tecniche delle strutture della pubblica amministrazione. Io credo che questo sia il punto di fondo di questi ultimi anni, sempre più a dito la responsabilità. Sì, la ragioneria generale dello Stato è diventata la proprietaria della politica economica. È così. E siccome io sono convinto che alla fine chi vive del controllo e dell'intermediazione di bilancio pubblico non ha l'interesse alla diminuzione del totale di quel bilancio pubblico, perché ce lo insegna Buchanan, ce lo insegna Niskanen, ce lo insegna tutta la scuola, diciamo, che analizza il comportamento di un attore pubblico amministrativo su ciò che lo giustifica in vita, cioè l'ampiezza di ciò che intermedia, cioè di quanto è largo il bilancio pubblico e di quanto è larga la pressione fiscale. Io non mi stupisco che da parte di questi vertici tecnici dello Stato ci sia una contrarietà molto forte a diminuire la spesa e a diminuire la pressione fiscale. Il problema è che è sparita la politica economica da questo punto di vista. Cioè, di fronte a, mi dispiace dirlo, 17 anni di promesse non mantenute dell'ala berlusconiana e dell'ala leghista del governo di centrodestra ex, quello che passa è una inerziale tendenza a fare più spesa e più tasse. Siamo a 3 tasse al giorno, quelle inventate per la copertura della riforma del mercato del lavoro, l'aumento delle tasse sui decolli, l'aumento della tassazione sulle flotte aziendali, come se le imprese ne avessero bisogno, sono veramente delle pessime trovate, la diminuzione di 10 punti di deduzione per chi non farà l'affitto con la cedolare secca, sempre per finanziare la riforma del mercato del lavoro, ecco, di tassa in tassa un'economia muore, siamo al punto che non lo si può neanche proporre in Parlamento con proposte, lo avete sentito, che sono tutt'altro che demagogiche. Allora però il problema è che forse bisogna pensare a qualche cosa di nuovo. Ora andiamo in pubblicità e poi torniamo con Baldassarri, chiarito il punto del perché non ce l'abbiamo se non con una questione che ci vede sottratto il punto fondamentale della politica economica di questo governo, le tasse e la spesa. Se non c'è più questo, che è il fondamento di ogni democrazia rappresentativa, che è l'origine di ogni rivoluzione liberale, per tagliare le penne a questo cavolo di aquila che diventa un avvoltoio quanto è troppo pesante, cioè quella della spesa pubblica e delle tasse, se non si può discutere e proporre di questo in Parlamento neanche nelle forme dovute, qui c'è un punto di fondo che riguarda la rappresentatività del sistema politico, no, io dico la libertà a questo punto del sistema politico di poter scegliere tra questo indirizzo che andiamo avanti da 20 anni a fare più spesa e più pressione fiscale e l'alternativa, che è un'alternativa per crescere, no, è un'alternativa di libertà. Ed eccoci tornati, io vi ricordo, tanto per ricominciare da dove ci eravamo fermati, che su totale di 720 forme di agevolazione fiscale, che sono quelle censite dalla sottocommissione gruppo erosione fiscale, dei 4 gruppi che istituì il precedente governo come base poi per capire dove si poteva fare pulizia, ordine, razionalizzare nella giungla delle deduzioni, detrazioni, abbattimenti di imposta agevolati, per concentrare le risorse su famiglia e su crescita economica, altra cosa di cui si è persa nel tempo nozione, perché la delega fiscale il governo ci ha annunciato di averla pronta da tempo, di non essere più la delega precedente, la spending review è stata annunciata all'atto della costituzione di questo governo. Io francamente mi sono un po' rotto le scatole da tanti anni di sentire dire ogni volta che noi dobbiamo studiare ancora la spesa pubblica per decidere dove tagliarla. Che cosa dobbiamo studiare? Chi conosce i numeri della spesa pubblica sa perfettamente quello che, ancora una volta, il senatore Baldassarri ci ha ricordato: dove sono state le poste degli aumenti, di che cosa c'è bisogno d'altro se non di decidere. Ecco, invece, ancora una volta, noi abbiamo fatto appunto la tassonomia, la ricognizione al 2010 di tutto ciò a cui lo Stato rinuncia per le diverse forme, 720 forme di agevolazione oggi esistenti. Su questi dati che portano a mancati introiti fiscali per 253 miliardi di euro, voglio ricordarvi quello che lo Stato dà alla famiglia italiana, che insieme alla crescita è la vera grande priorità per rimetterci in piedi, perché noi abbiamo una curva demografica mostruosa e questa curva demografica è figlia del fatto di questo, è figlio, cioè rispetto alla media dei paesi europei che danno sul totale delle proprie spese di welfare il più dell'8% sul totale delle spese di welfare, noi sul totale delle spese di welfare e come sostegno indiretto fiscale diamo poco più del 4% alle famiglie italiane, cioè su 253 miliardi di euro, cifra del 2010 censite, che sono i minori introiti dovuti alle 720 forme di agevolazione diverse, alla famiglia, quindi componente detrazioni per coniuge a carico e componente detrazioni per figli a carico, noi abbiamo dato 10,5 miliardi, sarebbero stati un miliardo in più, ma poi bisogna levare la quota agli incapienti, 10,5 miliardi, 10,5 su 253 miliardi di euro invece, che è il totale dei minori introiti fiscali dalle diverse forme di detrazione. Di questi 10,5 miliardi, più o meno 3,5-3,7 sono per la detrazione dei coniugi a carico, e per la natalità tutto quello che noi riserviamo di sostegno alle famiglie italiane attraverso lo strumento fiscale sono poco più di 6 miliardi e mezzo per 800 euro di detrazione figlio a carico a testa, che diventano 900 euro se inferiore ai 3 anni di vita. Questa media è una media pari a meno della metà di qualunque altro ordinamento fiscale nel nostro paese. Diverse sono le proposte, ma il problema è che noi continuiamo a vederci rimbalzate dal quoziente familiare al fattore famiglia, all'aumento delle detrazioni. La risposta è sempre non si può, non si può, non si può. Si può andare avanti con un non si può, o qui c'è un esproprio di politica economica da parte dei vertici tecnico-amministrativi del Ministero, che poi alla fine cambiano i ministri strie il colore politico o magari governi tecnici, ma sono sempre gli stessi. Che impressione ha il senatore Baldassarri? Beh, intanto volevo chiarire, il primo scambio era meno ruberie e meno tasse alle famiglie, il secondo scambio è meno sprechi, i fondi perduti, 40 miliardi all'anno, che negli ultimi 30 anni, se li sommiamo, rappresentano metà del debito pubblico italiano. Noi abbiamo speso metà del debito pubblico italiano dicendo che era a sostegno dello sviluppo, dell'occupazione, del Mezzogiorno. Beh, tutti sanno che questo non è avvenuto e che quindi quei soldi sono andati spesso anche ad organizzazioni criminali. Allora, il secondo scambio è trasformare i sussidi alle imprese da fondi perduti a credito d'imposta e con le risorse liberate togliere i salari dall'imponibile dell'IRAP, cioè sgravare le imprese dall'imponibile IRAP sul monte salari e dare i sussidi come credito d'imposta, cioè l'impresa sta sul mercato, fa gli investimenti, fa l'occupazione e il sostegno dello Stato o delle regioni in gran parte può essere riscosso non ex ante per cassa per poi scappare, ma ex post quando uno resta sul mercato. Questi sono i due scambi politici che avevamo previsto. E anche qui per le imprese c'era un fondo presso il quale affluivano i risparmi di spesa dovuti alla trasformazione dei fondi perduti in credito d'imposta, e anche qui il Ministero dell'Economia avrebbe fatto un decreto per progressivamente nel tempo togliere il monte salari dall'imponibile dell'IRAP. Quindi anche questo, da questo punto di vista, c'era uno strumento cautelativo per impedire il deficit. Non ha niente a che vedere, certo, con l'articolo 81, ma la cosa buffa e paradossale è addirittura un'altra, Giannino, e cioè che c'era un terzo emendamento, anche qui proposto negli ultimi 3 anni più volte, che riguardava e riguarda i ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni alle imprese per circa, come sappiamo, 80 miliardi di euro. Altro tema dolentissimo. Bene, negli ultimi 3 anni, quando io proposi la possibilità per le imprese di fare la cessione alle banche pro solvendo, cioè una operazione privatistica, l'impresa ha una fattura, la porta in banca e la banca, se vuole, può anticipargli, quindi un po' di ossigeno finanziario. Bene, qui negli scorsi 3 anni la ragioneria ha sempre e il Ministero dell'Economia hanno sempre detto no. Perché? Perché avrebbe fatto esplodere i conti del debito pubblico. Io ho sempre sostenuto, da economista francamente, che un'operazione di cessione pro solvendo non intacca minimamente le statistiche sul debito pubblico, anche perché francamente è vero che questi 80 miliardi non sono ufficialmente nei conti del debito pubblico italiano, ma tutto il mondo sa che l'Italia ha 80 miliardi che ci dovranno entrare, per così dire. Appunto, ecco. Ma l'operazione di cessione pro solvendo non ha niente a che vedere con i conti pubblici, perché è un'impresa privata che fattorizza, come si usa dire, fa il factoring delle sue fatture, ad una condizione: è necessario che l'amministrazione pubblica debitrice accetti la fattura, altrimenti nessuna banca può anticipare la fattura se non ha il riconoscimento da parte del debitore. Bene, nei 3 anni passati ci è sempre stato detto no, perché esplodevano i conti del debito pubblico, sarebbero esplosi i mercati finanziari, lo spread e quant'altro. Poi abbiamo visto che lo spread è esploso, ma per ben altre ragioni. Questa volta, e questo è l'unico punto positivo di questo decreto che è passato al Senato, questa volta è stato accolto questo emendamento dal governo, fatto proprio con un giudizio positivo della Ragioneria dello Stato, che finalmente dice: è vero, una cessione pro solvendo è possibile e non intacca i conti della finanza pubblica. E questa è una notizia molto importante per le imprese, perché è passato il decreto anche alla Camera e quindi divenuto legge dello Stato. Tutte le imprese italiane possono andare dalle amministrazioni pubbliche debitrici, chiedere di accettare la fattura, cioè sostanzialmente di dichiarare che non è una fattura falsa, è vera, e con questa andare in una banca, e la banca liberamente può o meno anticipare i soldi di questa fattura. Ora, sarebbe anche opportuno che si facesse un accordo quadro con l'ABI, l'Associazione Bancaria Italiana, che su queste operazioni le faccia in modo più celere e soprattutto a condizioni di tassi di interesse più sopportabili, perché va detto che nel frattempo, finché l'amministrazione pubblica non... Ma posso fare una domanda? Questo è per l'intero ammontare o con un limite di soglia, perché si era letto un milione? Non c'è nessun limite di soglia, perché dipende da come reagisce il mercato. Ora, anche fossero 10 miliardi, no, ma per carità, buttali via coi tempi che di oggi che ci sono. Ma la cosa buffa è proprio questa, che invece di esprimere un giudizio politico nel merito di queste proposte, ci si nasconde dietro organi tecnici. Quali organi tecnici? Cioè la Ragioneria Generale dello Stato, ripeto, in un argomento dicono per 3 anni no, poi e poi dicono sì, e non si capisce. In un altro argomento dicono per 3 anni sì e poi dicono no. E francamente, questo è il grande tema che pongo da 20 anni, Giannino, lei lo sa benissimo, cioè occorre avere un'autorità indipendente sul bilancio pubblico, sulla spesa pubblica che certifichi, perché altrimenti, così come appare evidente, la ragioneria attacca l'asino dove il padrone vuole. Quel problema è, per esempio, in ordinamenti come quelli americani, in cui il Parlamento è dotato di un organo proprio, il budget office, eccetera, eccetera, non è l'equivalente dei nostri servizi, diciamo così, studi della Camera o del Senato, e in ordinamenti come quelli americani in realtà esiste poi una vera e propria terzietà rispetto a ciò che il governo, con a quel punto le sue ragionerie generali eccetera eccetera, dice, e persino rispetto a quello che il Parlamento dice. Allora, a questo punto, vista la centralità e l'andamento inerzialmente accrescitivo di spesa e pressione fiscale nel nostro paese, secondo me il senatore Baldassarre tocca un altro punto fondamentale, altro che le tante chiacchiere sulle riforme istituzionali di 20 anni buttate che abbiamo alle spalle. Ora abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale. E mentre tornano i Door, sentiamo qualche telefonata di qualche eroico ascoltatore che in diretta da Pasquetta, però è stato toccato in profondità dalle considerazioni che ci ha fatto il senatore Baldassarre su come si possa e si debba, senza fermarsi alle obiezioni di finti tecnicismi che vengono a chi invece in maniera documentata e seria dice meno spesa per meno tasse subito, oggi, vista le condizioni del paese. Cominciamo con Stefano dalla provincia di Roma. Prego Stefano, brevemente. Salve, un saluto a tutti i partecipanti alla discussione. Dunque, io sono un medico ospedaliero, sono 32 anni che lavoro nella sanità pubblica, ci tengo a precisare soltanto nella sanità pubblica, e vi posso garantire che le spese della sanità di cui parla il senatore sono state bloccate da tempo, quelle che riguardano il personale. Noi abbiamo contratti bloccati. Stefano, il senatore Baldassarre ha parlato di quelli che si chiamano beni e costi intermedi, cioè le forniture. Non è il personale, sono le forniture. Le forniture sono aumentate del 50% nei 5 anni del pre-crisi, non il personale. Appunto, quindi se c'è questo aumento di spesa che lui appunto ritrova in questi suoi conti, da addebitarsi esclusivamente a un discorso di burocrazia che, con l'istituzione delle aziende sanitarie locali, è stato creato dai politici. Ma per carità, ma questo è il punto. Benissimo, perché la percentuale di PIL che viene spesa per la sanità è il più basso d'Europa. No, non è la più bassa d'Europa. No, non è giusto, non è la più bassa d'Europa. Se lei pensa che noi spendiamo per la sanità in Italia con i 14 miliardi meno di quello che si spende in Romania, sbaglia, quindi non è così, non è la più bassa in Europa. Ah, perché lei vuole paragonare la sanità romena con quella italiana? No, io non voglio paragonarla, Stefano, quindi siccome nessuno ha detto quello che lei dice, lei ha parlato di personale e qui parliamo di forniture. Le forniture pesano per oltre il 50% del totale delle forniture delle pubbliche amministrazioni italiane, che supera i 140 miliardi di euro. Oltre la metà sono in sanità, e di quella voce è aumentata di oltre il 50% nei 5 anni del pre-crisi. Lei mi parla del personale, qui non stiamo parlando del personale, e del fatto che siamo quelli che spendiamo di meno, e non è vero neanche questo. Quindi il problema è forniture significa che ogni singola azienda sanitaria, ogni singola azienda ospedaliera, come centro di costo, è dotata del potere di scegliersi i fornitori, di fare gare, acquisizioni, eccetera, eccetera. Errore, bisogna centralizzarlo, bisogna ottimizzare il processo di acquisizione, perché magari così non ci abbiamo questa voce che aumenta del 50% in 5 anni in cui non risulta che abbiamo avuto peste, colere, pandemie, eccetera, eccetera. Non c'entra niente con tagliare gli stipendi a chi ci lavora, uno, oppure dire, perché l'implicito è spendiamo meno di tutti gli altri, dateci più soldi alla sanità. No! N.O., perché sappiamo, visti i conti, come si fa se qualcuno ci mette in condizione di farlo, altrimenti vuol dire che si difende l'aumento inerziale della spesa. E, perdonami Stefano, vi buttano polvere negli occhi perché vi fanno credere che vi vogliono tagliare gli stipendi e vi fanno difendere lo schifo che c'è dietro connivenza tra politica, vertici amministrativi della sanità e, mi spiace dirlo, migliaia di imprese che ovviamente con questo settore della discrezionalità degli acquisti ci va a nozze perché ci campa, spiazzando tutti gli altri che campano di concorrenza. Per essere precisi, Stefano, io non ce l'ho con lei, però attenzione a non cadere nelle trappole. Sentiamo Giulio che chiama dalla provincia di Fermo. Pronto? Prego. Buongiorno, sono Giulio Cossini, sono un amico del senatore Baldassarri. Volevo chiedere al senatore per quale motivo le fondazioni bancarie non pagano l'IMU. Ah, altro tema su cui ci siamo scatenati. Facciamo rispondere subito al senatore Baldassarri perché abbiamo solo un minuto. Intanto va detto subito quello che ha detto lei, Giannino, prima, è molto importante. Politicamente ci è stato risposto dobbiamo completare la spending review. Ora, la spending review nel 1981, 31 anni fa, è cominciata con l'allora ministro del tesoro Andreatta ed è stata guidata dall'attuale ministro Piero Giarda e dal sottoscritto, sì. Il professor Giarda e il professor Baldassarri da 31 anni che dobbiamo facevano ancora la spending review. Rispondi subito sull'IMU perché hai 30 secondi. Ecco, l'IMU sulle fondazioni bancarie è entrata dentro l'esenzione, la riduzione eccetera, in quanto onlus, cioè tutto il settore delle onlus merita un'agevolazione. Il problema è che anche dentro queste onlus non è che al buio tutti i gatti sono grigi, bisognerebbe entrare nel merito delle onlus, di chi è veramente un onlus o di chi francamente attraverso una fondazione bancaria magari controlla delle grandi banche. E io qui ti devo fermare, ringraziarti per l'attuazione, vai ancora avanti. Per me le fondazioni bancarie devono pagarla l'IMU, visto che ci siamo qui divisi perché doveva pagare la Chiesa. Devono pagarle come? Controllano le banche, quindi che siano attività di tipo, capito, non di lucro. Mi scappa da ridere. Appuntamento a domani e buona Pasquetta a tutti. 9 in punto.